non le realizzate. Ti scorrendo. Cazzo, ma sei cazzo. Perché ti dà? Faccio le lacrime in luci. Ecco, adesso non mi scappiamo. Cazzo mica, siete, ponetemi. Io, lui, associato a una delinquere. Ma sai questo scherzo che facevamo noi, ACP, un po' tossi, dai. Se poi c'hai i watt regolabili che riesci un po' a muovere, con un potenziometro. E se però tu metti una pera, cara. Adesso eravamo fissi di segnale, la domanda fino a bizza. Ma invece ne ho fissate e suonato tutto. C'è la Mariana Femmucci con la voce di Defini. Come ero io? Che sono pisciato la poticata da risate. Poi va registrato. È registrato? No, voleva registrare. Ah, e beh. Mira lì. Ah, si è buttito già. Ma è incazzato, eh? Con Gianni ce l'hanno con noi. Ehi, ehi, Gianna, ci sei cascato. All'inizio ci sei cascato, e come ci sei cascato? Ma era uno scherzo, non te la prendere, era uno scherzo. Tutto lì. Ma è il padre o il figlio? Il padre. Ma come tu lo prende? Non riesco a capire cosa dice, sento che parla. Dai già, devi ammetterlo che ci sei cascato e basta, tutti i bimbi, non c'è problema. Siamo stati bene, siamo divertiti, basta, tutto lì. Ciao, capri due. Ma che è per i cosi, va bene, va. Adesso ci racconta tutta la sua storia. Come me non ti sento con la calzetta? Beh, ci sentiamo tra una mezz'oretta, dai. Sì, là, mi ha fatto lacrimare un po', perché mi stavo scendendo le lacrime pesante. E l'altro chi era, lo spagnolo? Chi era capito, lo spagnolo? Perché è riuscito il nome, la cosa? Franco è riuscito il nome, ti ha chiamato Kawasaki. No, ho chiamato Tokinho Nagasaki, però sicuramente il mare ci è arrivato. Aspetta, fa orecchie di porco, mi. È venuto, ci ha seguito, le 10 e ha scoperto tutto. Ma c'è cascato con una pera. Sì, tu non vuoi la mettere, ma c'è, se però vuoi mettere la pera proprio. Ah, io ammettilo che all'inizio capito lui ci sei cascato, eh. Poi si è venuto a ascoltare e ha capito chi eravamo. Non ci se no apri, c'è il potenziometro della, dei watt, potevo aggiustare con quello, capito? Ci ho pensato, ma siccome era talmente preso tuo padre da Diex, e vabbè, mi sono in compagnia di Tullio Kawasaki, avanti tu. Cazzo, ciao. Sì, comunque faccio bene la parte di Manolo, dai, vabbè, fa. Su quello è il panaro. Sì, è perché spillo? Lamentare, la verità è tutta, io sto bene. ha avuto la fortuna di entrare in questo posto di lavoro. La fortuna? Ma io ho sempre lavorato. E me la fortuna ho fatto questo posto di lavoro. Poi ce l'ho 22 anni. A prima sento ce l'ho 10 anni. Gianni, tu mi hai conosciuto sempre lavorando. Ha voglia. Poi ci faceva anche lavori a conto suo, di muratura, di coso. No, tu mi hai sempre lavorato. No, allora, non sto dicendo quello, ho detto, e purtroppo lavoro non ce n'è, c'è uno dei pochi che ha un posto di lavoro come Dio comanda, qua a Sassari, capito? Quello è, e ha avuto la fortuna a Tunisia. La fortuna, guarda, il minimo che sono durato, e vuole dire un'impresa, sono stato 4 anni, capisci, ma sono anche pochi, no? Lavoro per va bene, non manca mai, giustamente. Poi ho fatto più pesato, 10 anni, e poi qua ci sono già 22 anni, fate conto, la prima febbraio 98. Quanti anni duriava? Io a settembre compio 66. Ah, cosa vuol dire? Un cazzo 66 anni? No, ne dimostro perché bevo la più di 10 anni in meno. E tu Luca quanti anni c'hai? Già sei giovane tu dai. 45, tundi. Ah, sì, sì, no, buono, dai. Ma passare in fretta, da 45 in poi, da 40 in poi passare in fretta. No, beh già, da dopo il militare sono volati. È interessante chi passa, Venduni, che passino bene, dai. Poi non ci possiamo lamentare, interessante che uno viva tranquillo. Gianni, là siamo tutti no, che non sai che venuto appresso, mentre a Dio. Lo so, infatti devo fare il coso, devo ereditare tutta la stazione. Comunque, fate scherzi, alle 7 di uscire. Ma esco poi rientro subito, fate una scorta di gelati. Mi tu e Luca c'è di brisi sempre male di maschette di gelati in te. No. Che di gelato non ne prendo, prendo solo proteti, pinguini e via dicendo. No, io ne prendo. Ne ho preso una maschetta l'altra volta già, come si chiama? Tiramisù, e me l'ho già fatto fuori, ma non il biglio, no. Prima sì, prima avevo preso proprio il zabieno, no, anche la Maria li compravo, basta. Finito, avanti Claudio. Claudio. Ti ho arrugginito. Bene, l'ho chiuso là. Sta fatto. Claudio rientra che c'è tre amici qua, che ti vogliono bene. No, magari ha agganciato Capri 2. No, usciva bene Claudio, mi piaceva più che il padre come modulazione, lo sai. Aveva la radio molto potente, non so cosa stava usando, che apparato, che microfono, però usciva bene. È una delle poche volte che l'ho sentito uscire bene. Ma non può male. Per solito è ossatolo oppure c'è questa radio rimbombante. Che diciamo praticamente Claudio era già rilassato, quello era l'euforia di un argentino marone dalla Spagna. No, era incazzato. E anche Spillo fino a Bergamo è rimasto. Io ero Spillo, no, lui. Io sono Spillo, hai capito? Gioia. Cadere lacrime me le hai fatte. Se non riuscivo neanche a entrare, dito che sei cosa, devi anche a pagarmi. Siamo abbastanza dentro e fuori. Hai visto quella rita a luna già, cazzo, va. Povaraccia. Ehi, l'ho vista. Lo sai che a te se non si fa lo stesso, non si gonfia quando è calore così, non che vuole fare. Mi si gonfia tutto il pene e mi si forma una bolla tipo un palloncino, ti fa impressione, trasparente. Insomma, sarebbe il nodo che fanno loro, no? E si gonfia, si raccoglie sempre un palloncino. Casino. Dai, speriamo bene, poi andiamo a vendere. Ma non puoi da Fracassi. Via. Già è bravo, Fracassi, guarda. Io lo portavo prima in via Pascoli e praticamente mi faceva la cura, poi mi diceva me lo porti per visitare, lo visitava e mi faceva pagare, poi lo portavo un'altra volta e mi faceva pagare di nuovo da Fracassi, per dire ti dà la cura, a volte ti dà la cura, non ti fa pagare nulla, te lo visita la volta dopo e non ti fa pagare, qua è un ben gamba. Ti fa la fattura, no? Sì, se ti fa pagare ti fa la fattura, sì. E vabbè, porta. volta la poverina, dai. Ma poi che c'è anche altri problemi, luna, chi lo sa, magari anche può essere anche quello. Come se non lo fai, che dici tu pure? No, ha dovuto dal calore, praticamente si chiama, aspetta, l'ha detto, vaginale, adesso un nome non mi ricordo. Prolasso. Bravo, prolasso vaginale, sì, bravissimo. La risolvo io, eh? Beh, tu sei l'esperto delle vagine. Perché no, sono cose che ho studiato quando facevo servizio ambulanza e cose, ci facevano i corsi. I dottori, sia psicologi, sia... ci insegnavano come comportarci con gente, per dire, psicopatica, eccetera, eccetera. Quindi una volta sono andato a prendere questo che ha distrutto mezzo a casa, un bel grosso, tutti quanti guardando, capito, dice un bel maro, mi occhio, ci ha detto occhio, quando salite che quelli vi picchia, è un bel cattivo, cazzo, sono andato. E gli ho detto, la madre aveva picchiato, cazzo, li ha buttati, c'erano tutti i denti a castello girati, lampadari stracciati, qua ha fatto un casino meno. Gli ho detto ciao, e lui mi ha guardato. Dai, io ci vedi come ti faccio fare un giro in ambulanza, non ti piace fare il giro in ambulanza? E lui sì, oh, si è occupato con lei dal bracetto, tutti gli altri a vedere a bocca a misa. Come ci è venuto tranquillo, cazzo. Ma già arrivato lo pronto soccorso e il dottore ha detto, ma chi è che devo guardare, la madre o a lui? Perché mi sembra che sia uno peggio dell'altro. Ma con problemi strani, no? Esaurita, la madre si è esaurita perché lui faceva il casino, era esaurito. Cazzo, faceva il casino, la madre è già guidato l'esaurimento buruetta, poveraccio. Forse si chiama facciografo. Proprio si immaginava, purtroppo chi fa quel tipo di lavoro ne avrà visto di tutti i colori. E lo fa anche per, come si dice, per essere pagato, volontariato. Una volta ci hanno chiamato in via Umberto e praticamente ci ha telefonato una signora, praticamente ha detto che c'era uno in terra che è caduto, si è spaccato tutto il sopracciglio, c'è tutto il sangue in terra, lui non si alzava, c'era dolori, furti. Siamo andati d'urgenza, cazzo. Siamo andati a sollevarlo e il mio collega fa stop. Quando dico la metà parola c'è qualche pericolo. Ci siamo bloccati. Questo mio collega ha preso e ha tirato la pistola da tasca e l'ha scarrellata. Siccome questo mio collega faceva anche la guardia giurata. Cioè, come c'è la pistola? E lui gli ha detto, perché sono un poliziotto. Il poliziotto, fammi vedere la tessera. E lui ha detto non ce l'ho qua. Ha preso, ha chiamato il 113, ci sono arrivate tre pattuglie di polizia. E questo qua era un delinquente di quelli abituali, aveva una pistola con la cosa a brasa, con il numero avanti con la brasa. Cazzo, sono saliti tre poliziotti sulla muranza, erano arrecati a rifilare. E dopo l'hanno arrestato sicuramente perché c'aveva anche la pistola rubata. Ma era nella camata anche d'uno a fare che cosa? Sicuramente era ubriaco, no? E allora, è accorto che pippa, è caduto e si è spaccato il sopracciglio. C'aveva un bel taglio, un bel trinchis sul sopracciglio, stava sanguinando, è caduto a faccia a terra. Casino è già. Questo vabbè un bel po' di anni fa, no? Un bel po'. Ultimamente quando facevo servizio ambulanza, nell'ultimo periodo, e un'altra volta mi è successa un'altra cosa, questo qua mi stava pugnalando alle spalle, cazzo, e la mia collega mi ha detto, attento, ho fatto il tempo a girare, mi dicevo, controllo la cucina. Qui sei proprio a rischio, aiuto le persone, ma sei a rischio di vita. Sì, a rischio sei sempre lì, perché in urgenza ti può succedere qualche incidente, sei a rischio perché ti possono accusare di cose che non hai fatto, tipo come è successo a me, abbiamo preso un tipo con la cirrosi, una volta da Barro su Sinco, abbiamo preso questo qua, cazzo, c'era una pancia enorme, cazzo, c'era un taglio che riprendeva tutta la pancia, c'era una cirrosi epatica, stava uscendo sangue dalla bocca. Allora io stavo guidando l'ambulanza e il mio collega lo stava aspirando dietro, gli stava aspirando il sangue per non farlo affogare. Beh, fatto sta che abbiamo pronto il soccorso, sai cosa ci ha accusato l'infermiera pronto il soccorso? Che l'avevamo fatto, anche io l'avevo fatto il massaggio cardiaco e gli avevo rotto le costole. E ha detto, come faccio? faccio io a fare il massaggio cardiaco e rompere le costole quando stavo guidando la burrata? Ti ho visto io che lo stavi massaggiando. Ma cosa hai visto? Tu sei tutto tanto rincoglionito, dammi il nome che ti denuncio subito per calunnia. E il mio collega ha detto, guarda che nemmeno lo stavo massaggiando, lo sono aspirato, perché questo qui poi l'ha alzato il medico, l'ha alzato cosa, l'ha visto la pancia, e no, no, questa che roba di cerusi, aspetta che lo aspiriamo, hanno fatto bene ad aspirarlo, dice, l'avete aspirato? Sì, avevano fatto bene ad aspirarlo, meno male ce l'ha fatto ragione. Ma per dire, questo ci stava, mi stava accusando che io l'avevo massaggiato e gli avevo rotto le costole e stavo uscendo sangue per quello. Vedi, fai dal bene e poi vedi. E infatti c'è sempre lo stronzo, capito? Quello lì, Bastiano, me lo ricordo come se fosse oggi. Ci siamo attaccati malamente da lì. Ma attaccati però. Ti ho detto chiaro e tondo. Tu, cazzo, non hai visto niente, stai dicendo cazzate. Mi hai fatto il dottore tutta la rivolta, toccate e hai detto, ascolta, lascia perdere. Adesso lui fa. È nella centrale 118, è quello che chiama, che fa, che manda le ambulanze, eccetera, eccetera. Avanti Torino. E io sono al telefono da Torino. Via. Cazzo, è l'incidente che abbiamo avuto via Mendola, via d'Italia. Cazzo, avevamo una tipa a bordo, un ictus cerebrale. Cazzo, dopo il giudizio, cazzo, è uscito dalle file delle macchine che sono fermate per farci passare, è uscito da dietro, ci ha preso dietro, ci ha fatto sbattere la semaforo e ci ha fatto capottare. Dopo 5 minuti mi ha chiamato Manuela, papà, ma stai tornando a casa? E papà ha avuto, e l'hanno tamponato con l'ambulanza e già sta per tornare, dai, sono tornato a casa che è tutto basciato, tutto musulmani, con i punti, cazzo guarda. È un casino, già, è un casino, per carità. E quella che l'ho fatta, davvero. Quando è? L'anno scorso, quest'anno, l'anno scorso, stavo scendendo con Marina via Marghiotti, a Palapice via Marghiotti c'è il via Sorso, no? E lì c'è un ragazzo in terra, sono caduti, io sono buccato con la moto, lo scarabeo, tutti e due imbrianghi, e quel tipo che era in terra c'era tutta canta la gamba girata già, tutti vedevo c'era questa gamba, riusciamo anche a metterla a posto, infatti poi è arrivata l'ambulanza, l'ha caricato, e stava soffrendo come un animale. E ne ho visto uno io al ponte che ha avuto un incidente al ponte. C'era un periodo che avevano chiuso il ponte da una parte, te lo ricordo. E questa macchina è andata in controsenso, cazzo, la biglia di pieno, questa era in moto. Ah, cazzo, ma gridando, cazzo, da non poterne più, un azzecchio, cazzo. Ci aveva lo stesso la gamba girata, mi è caduta la moto addosso, di quelle moto grosse, Kawasaki, tipo così, capito. L'abbiamo caricato lui e l'abbiamo portato all'ospedale. E poi ne ho visto uno che faceva un bel ridere. Un incidente stradale lì via Sorso e mi incrociò col ponte, ce l'ha presente. Ci sono tutti una moto con una macchina e il tipo della macchina si è cagato addosso dallo spavento. Mi ha chiamato la parte e ha detto ascolti io guardi mi vergogno a dirglielo però mi sono fatto la cacca addosso perché mi sono spaventato, cazzo, io e te vabbè non è successo nulla, poi questo qui l'aveva rubata la moto, l'abbiamo portato all'ospedale al tipo della moto, arrivato all'ospedale questo qua se ne è scappato come l'abbiamo fatto scendere dall'ambulanza, se ne è fuggito a piedi e praticamente sotto la sala della moto c'erano chiavi stili eccetera eccetera per rubare, capito? Era tipo un bell'occhio e praticamente se ne è scappato via e poi è venuta la stradale a Ciso a cercarci per vedere se lo conoscevamo perché questo tipo dice che l'ha rubata la moto, che sotto la sala c'erano chiavi stili e roba del genere. Ci ha svegliato di notte, sono venuti di notte per vedere se lo conoscevamo, ma noi non lo conoscevamo, chi lo conosceva. Beh certo. E te ne sei detto di gulore, tu di notte, quando esci di notte poi trovi tutti qua, tutte le cose possibili e immaginabili. Una notte ci hanno chiamato 4-5 volte per questo zingaro cotto che c'era vicino, prima la farmacia era in via Sosa, te lo ricordi quella che c'era all'inizio di via Grazzarelle della via Sosa? Un casino, Torino ci sei? Che al telefono, aspetta, che sta piccionciando. Un casino, cazzo, un casino. E per questo zingaro ci hanno svegliato 3 volte, la terza volta che siamo andati a Villa Dugoi. Lo zingaro. E allora l'abbiamo tirato su e abbiamo detto, adesso perché noi ci abbiamo svegliato tre volte per colpa tua, perché pensavano tutti che ci si è sentito male, capito? Invece era cotto che pippa. Intanto io non bizzeri. Una volta con Liliano si è messo a gridare, cazzo, siamo arrivati agli punti di notte. Mi sono cagato sotto, poi c'è inchiodato la macchina, oh, se non fosse messo a gridare io non l'avrei visto, c'era uno zingaro coricato in mezzo alla strada. E questi ragazzi stavano cercando di andare a togliere la mezzo della strada, io ho fermato la macchina, ho messo le quattro frecce, ne era giù di lato di gol, ho detto alzati cazzo, ma che e ha pregiato i zingari, ho bevuto whisky, ero ubriaco, ho bevuto whisky, cazzo, io non ho fatto bene quei ragazzini tutti dietro guardare perché stavano rischiando per andare a prendere a lui, cazzo, magari guidano i sotto. Vattene dietro il coso, scusi, ho chiamato 113, gliel'ho detto, mi ha detto ha fatto benissimo, mi ha detto lontano perché questi ragazzi che stavano andando, sì siamo arrivati e stavano andando in ambulanza e praticamente poi sono arrivati loro e si sono arrangiati loro, quando ci sono arrivati loro non sono andato io. Beh, certo. E gli altri zingari si sono tutti quanti andati, non hanno agitato, non hanno lasciato in chi bisogna andare. Io ci vedevo bene, sono una voglia, so. E non lo so, che venivano da noi a prendere birra. Le compravano una e poi se le mettevano due o tre sotto al giubbotto. Alla fine una volta è venuto questo qui alla cassa e è andato a mare, si è fatta la birra sotto al giubbotto. Cazzo, pa, si è spaccata, adesso gli ho detto una cosa, me l'ha fatta tre volte. Se no ti sto chiamando, i carabinieri ti sto facendo arrestare. Cazzo, mi l'ha pagata. Sono fubi, mi danni di naggia. Uno sotto casa non mi volevano vendere 800 euro una catena di quelle tipo magnaccio, di quelle in oro grosso, con croce grossa, e dice che se tutto loro di hanno furato, l'hanno sciolto e ci hanno fatto fare la catenina. Ha detto te lo vendo 800 euro, e le però non ne ho di soldi, ho gli assegni, e mi fa un assegno. E gli ho detto no, cazzo, la quasi che ci fa l'assegno ti rintracciare subito, ce l'ha furata. Lascia perdere, ho detto non mi interessa, ma guarda che questo è oro buono, sì, oro furato. Ma non mi dà mai, ti arricciare. E no, ma che? Quarta volta mi è successa un'altra a Porto Torres, stavo scaricando la roba in una casa di riposo, e tra la verdura, la roba che avevano comprato, e questo qui si è avvicinato, ascolta, vieni dentro il portone, dove la buchi? Vedi, ti faccio vedere una cosa, e io mi sono stato un po' lontano perché ero un po' tentennante, no? Si è tolto dalla carta, si è alzato i pantaloni, dalle calze si è tolto una catenina che poi era d'oro, però non si sa se era oro di Bologna o oro buono, e poi questo orologio un bel bello, e mi voleva per tutto 1.000 euro. Ho detto vai, ha detto che l'avevano rubata dalla mamma, che lui era un marinaio, ci aveva fatto male la tessera, che era un marinaio e che questo rappresentante era andato sulla nave e gli avevano aperto la valigia e ci avevano preso la roba. Ha detto sì, ma ci appare a me, cazzo, da lui, ma risale a me, vai, ha detto non ne voglio sapere nemmeno. Ogni tanto ne truffi uno, poi ci sono quelli che dicono di essere di Bartolini, che gli hanno alzato un pezzo, con quei giubbotti tutti i gatti che non sono di Rena, loro dicono che sono di Rena, ma non sono di Rena. Quindi mi ha avanzato un pezzo, e a me quando mi avanza la cosa la riporto alla ditta, non è che la prendo, Ok, sì. Ehi, sì, già, scusa che intanto mi sta scrivendo Marina, ha avuto un problema con il computer, quello che gli ho dato io, cazzo, era fortuna questa ragazza, guarda. Luca, come si dice sassanese in lucciola? Dimmi tutto. Caricato ti hanno. Caricato? Caricato ti hanno. Non ho capito, caricata. Abbassa il microfono che sta uscendo un bel male, abbassalo. Eia. Ho detto caricata ti hanno la carta. Via, da ieri. A Giuseppe però. A me oggi. Davvero che qualche cosa che non andrà. Che cazzo? È bello comunque, il commutatore dei canali, bello fluido di questo baracchino, confronto all'altro. Meglio così. Come sto uscendo io? Bene, ma poco fuori troppo alto. Strano, mi sta dando fuoco questa ceccia. Ah, ecco, allora vediamo. Ora. Sì, sto uscendo bene. Potenza 6, 5, 4, 3, 2 e 1. È 0. 0 no, ma 1 sì. Sto uscendo bene, dai. Quando ti arrivo di segnali io pompo, guarda un po'. Prova. 2,30, sì, quasi. 2,28, là, per esattezza. Ma dove arrivo? Sul più, sul 3, dove arrivo? Un po' passato il più. Devo regolare lo smitter invece, cazzo. Tu mi arrivi, fa passaggio, 9,10, se no 9,15. Una, due, tre, aspetta. Prima, potenza. Seconda, terza, quarta, quinta e sesta. 9,10 mi stai arrivando, pompo. Ma non sta tirando come deve tirare. Vedete che lo modifico. Ehi, è un grippi, no, assai, odio un grippi. E chi è che mi crepa? Uno ha detto un grippi. Vabbè. Che piccolo, cazzo. Cosa stai usando, lineare? Sto riparando lineare. Già pesa poco, c'è cosa. Cazzo, 15 kg pesa. Cos'è, un sacco di cemento? Ehi, più o meno sì, un sacco di cemento. Però non sta tirando.